Accomodatevi. È bello essere insieme, lo dico sinceramente, perché di questi tempi, forse uno già sta immaginando, che ne so io, la nuvoletta con l'ombrellone, con la bibita ghiacciata, la sdraio, il mare. Continualo a sognare, ma stai qui perché il Signore vuole refrigerare il nostro spirito, la nostra anima con la sua parola. Amen? Amen. Bene, noi iniziamo subito con un leggere il passo di questa mattina, sempre di Filippesi, che è una botta di vita, è incredibile, è proprio una fonte incredibile. Andiamola a leggere insieme, è in Filippesi, sempre dal capitolo 2, dal verso 14 al verso 16, dice: fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. È incredibile questo passo, è vero? Lo vivete così? Quante cose contiene? Poi noi possiamo dire l'uno all'altro e puoi dire a te stesso: sono fortunato, sono beato, mettile come vuoi, sono benedetto, sono santificato, il termine che vuoi usare. Perché? Perché ho Gesù, perché ho Gesù come Salvatore e come Signore. Gesù è la mia salvezza in ogni cosa, è il mio Signore in ogni situazione, e ancor di più io mi sento tanto fortunato e tanto benedetto perché ho anche la parola di Dio che è una bussola. La bussola la usi sempre, non la usi solo durante la tempesta, la usi costantemente per sapere la direzione che devi prendere o che devi mantenere o a cui devi guardare. La bussola la usi sempre, non è un qualcosa di una stagione o solo di un momento. E perciò vogliamo proprio questa mattina iniziare dal verso 16, dove dice: tieni alto la parola. Tieni alto la parola. Ora, come si tiene alta la parola? Questo è il punto. Così. E sono già piccolo, quanto alto la posso tenere così? Non è un dire materiale, ma è spiritualmente che viene detto: tieni alta la parola. Allora io ho due aspetti molto importanti che mostrano e ci stimolano a tenere alta la parola. La prima è: leggila. Lo so che è elementare, che potete dire: ehi, fra tante cose proprio, no, leggila, leggi la parola, leggi. Anzi, io aggiungerò di più, che leggendo la parola di Dio, non solo la tieni alta, ma affronti le situazioni con una bussola veramente ben chiara, che ti indica chiaramente dove andare e cosa fare, ma lo dice realmente, è una bussola, leggila, perché la parola di Dio ha le risposte, ha tutte le risposte, lo so che sembra strano, ma ha tutte le risposte, a tutto quello che viviamo, a tutto quello che vediamo, a tutto quello che sentiamo, la parola di Dio ha la risposta. Solo una cosa, nel leggerla, quando la leggi, non leggerla per cercare la risposta. Perché quando la leggi per cercare la risposta, almeno capita a me, viene sempre giudizio. E che io cambio e prendo un altro passo e di nuovo giudizio, non ricevo mai la risposta. Leggila per riempirti, per nutrirtene, affinché poi può venire fuori nel momento opportuno, può venire fuori quando c'è il bisogno e quando c'è bisogno anche della indicazione. Leggila costantemente, non ecco, questa è una cosa negativa, ma è una richiesta, per piacere, non nutrirti solo del culto domenicale. È bello, è glorioso, riceviamo tanto attraverso la lode, attraverso i fratelli, attraverso la parola stessa, è tanto, ma non nutrirti solo del culto domenicale. Per questo accade che man mano che avanzano i giorni, è lunedì, è martedì, è mercoledì, si affievolisce sempre di più quello che hai ascoltato e quello che hai preso. Continua a leggere e a nutrirti, e questo alimento. Io per conto mio, nonostante che ogni domenica, ogni predicazione, io prendo sempre gli appunti con il cellulare, scrivo tutta la predicazione, poi la devo interpretare, perché poi quando uso il dito grande sembra che scrivo in nuove lingue, non lo so, ma comunque riesco a rivedere. Eppure, nonostante tutto, perdi quello che hai preso la domenica. Ecco che leggendo, ecco che nutrendoti della parola, tu hai stimoli per ogni giorno e per ogni momento. Il secondo aspetto, dobbiamo andare in fretta, il secondo aspetto è proclama la parola, confessa la parola, proclama la parola. Proclama la parola, annunzia la parola, di la parola, anzi io dirò di più. Confessa la parola, prega la parola, pregala, canta la parola. Quando non ti viene, o anche solo un verso, anche solo un mezzo verso che hai memorizzato, che hai dentro, cantalo e poi aggiungi quello che vuoi tu a quel verso, ma questo rinnova i pensieri, rinnova il modo di affrontare le situazioni, dà uno stimolo e una forza a tutto quello che fai. È importante proclamare, annunziare a se stessi, perché vedete, noi è la realtà, noi viviamo, non solo che lo dice la parola di Dio, ma è reale, noi viviamo avvolti dal peccato. Il peccato ci circonda, è dappertutto intorno a noi, anzi ancora più grave. Adesso, in questa epoca, in questo tempo, noi non si sa più nemmeno che cosa è peccato. Perché? La libertà è tutta lì. Se dici questo è peccato, ma mi vuoi limitare nella libertà? Cioè, praticamente noi ne viviamo avvolti e nemmeno riusciamo più tanto a vederlo a causa che ognuno vuole vivere la sua libertà. Ognuno è Dio di se stesso. Ognuno fa le leggi per se stessa. E lo vediamo questo. Ecco perché noi dobbiamo mettere centralmente la parola, proclamarla, cantarla, fallo come vuoi tu, ma la parola, adoperare la parola per ogni cosa. Anzi, qui io dico un verso al contrario della parola di Dio. Usala a proposito e a sproposito, va bene? Anche quando forse non è opportuno, ma usa la parola, soprattutto logicamente per te stesso. Adoperare la parola mostra, questa è la cosa più importante proprio nel tempo in cui noi viviamo oggi, adoperare la parola mostra che cosa è bene e che cosa è male, perché altrimenti ne veniamo completamente imbrogliati da quello che ci circonda, perché così fanno tutti. E dove è scritto che così fanno tutti è la verità ed è giusto? Quello che la parola di Dio dice, quello è giusto, quello è vero. Ecco perché noi dobbiamo adoperare in ogni cosa la parola. Il Signore ci ha reso paladini della parola di Dio, portabandieri. Noi dobbiamo tenerla in alto, significa questo, la dobbiamo innalzare al di sopra di ogni cosa. Noi dobbiamo essere difensori della parola di Dio in ogni situazione. Noi dobbiamo non lasciarci, come dire, sopraffare da quelle che sono i termini o i discorsi filosofici o acculturati, ma noi dobbiamo mettere la parola anche quando è fuori tempo, anche quando è fuori moda, anche quando non va, la dobbiamo mettere in mezzo, perché è la nostra vita e io non voglio privarmi della mia vita. Ora passiamo al secondo aspetto, secondo punto di questo passo che abbiamo letto, che era all'inizio, non è il... Non mormorare. Il come, non lo so come è uscito fuori, ma c'era quel come, era prima... Come era? Leggila e proclamala. Non mormorare, diceva, non mormorare. Perché non mormorare vuol dire sentirsi superiori. In fondo, quando tu mormori contro l'altro è perché ti senti meglio dell'altro. Quando tu dici qualcosa nel confronto dell'altro è perché in fondo ti vuoi sentire meglio, perché in fondo ti senti peggio. Allora è proprio una contraddizione, ma è così. Allora noi siamo portati a mormorare, a dire dell'altro, a dire del fratello. C'è un racconto che è bello, che mostra proprio anche il fattore di mormorare, che non è solo biblico, ma è nella cultura anche antica. Molti di noi hanno sentito parlare di Socrate, questo filosofo greco che è vissuto 400 anni prima di Cristo, e lui era conosciuto come un uomo molto saggio, e le persone andavano a lui anche per chiedere e per dire. E un giorno un uomo si recò da lui, egli era tutto entusiasta, tutto carico, tutto pieno, e dice: sai, quel tuo amico... A quel punto Socrate ha detto: aspetta, prima che tu mi racconti e mi dici di quel mio amico, facciamo il gioco o il test dei tre setacci. Non so se l'avete mai sentita questa storia di Socrate, no? Il gioco dei tre setacci. Allora, prendiamo il primo setaccio. quello che stai per dirmi, hai verificato che è vero? E quel poverino ha detto, no, veramente l'ho solo sentito dire. Vabbè, passiamo al secondo setaccio. Dice, quello che stai per dirmi del mio amico è una cosa buona? E quello ha detto, no, al contrario, è proprio una cosa molto, molto brutta. Dice, vabbè, e so due, vediamo il terzo almeno, passiamo al terzo setaccio. Dice, quello che stai per dirmi del mio amico è utile? Dice, no, non crede. E allora Socrate si rivolse a lui e disse, e allora perché mi vuoi raccontare queste cose? Usa il test dei tre setacci quando qualcuno viene a raccontarti di un altro. Usa il test dei tre setacci. È vero? È buono? È utile? No, e allora non lo voglio sentire. Non lo voglio sentire. Perché poi lui si è liberato, si è scaricato di quella cosa e ha caricato te che te ne vai tutto riflessivo, non dormi la notte per quello che hai sentito e non stai bene. Vale la pena? No, non è utile. Allora non ascoltarlo. Il mormorio fa proprio questo, l'obiettivo del diavolo è mettere una cappa su di noi affinché ci sentiamo schiacciati e oppressi, perché noi poi ci sentiamo isolati, non capiti da nessuno, non apprezzati da nessuno. Questo è l'obiettivo che il diavolo ha proprio riguardo al mormorare. Io non è che uso proprio il metodo dei tre setacci, però ogni volta cerco di fare questo, interrogo il Signore, io lo dico sempre, ma Signore, com'è questa situazione? Com'è questa situazione? Com'è con questo mio fratello? E sai, ogni volta che io interrogo il Signore, sento come un ronzio. Non lo so se all'orecchio destro o all'orecchio sinistro, ma sento come un ronzio e sento la trave. Non sempre lo sento bene bene, hai capito? Però è quello che il Signore dice. Allora, io posso dire solo questo, che nel utilizzare, e torniamo di nuovo a quello che abbiamo detto, nel utilizzare la parola, noi veniamo addestrati, veniamo equipaggiati per il momento esatto dell'intervento, e perciò quando noi abbiamo qualcosa contro l'altro, allora è importante che noi ci rivolgiamo al Signore. Anzi, io voglio fare ancora un giochino con voi, ed è questo. Ho portato tanti specchietti e ora vorrei che noi potessimo specchiarci negli specchietti che io ti darò, va bene? E voglio vedere che cosa vedi in quello specchietto, la trave o la pagliuzza o la bellezza. Vogliamo farlo questo gioco? Sì, allora girati a chi ti sta a fianco, perché quello è il tuo specchio, quello è il tuo specchio. E allora è di a chi ti sta a fianco, devi dire letteralmente, devi dire quanto sei bello. Perché lo hai detto a te stesso, ti stai specchiando, lo hai detto a te stesso. L'altro è bello perché sei tu. E se per caso hai intravisto una pagliuzza, ricordati la trave, la trave, la trave. A questo il Signore ci dice, e poi abbiamo ancora molto, ma molto di più. Impariamo da Gesù, impariamo da Gesù. Non lo so che noi diciamo, ma Signore, il Gesù è Dio, era Dio quando era sulla terra, era Dio, era uomo, tutta questa quisquisizione intorno a Gesù. Io so che Lui ha vissuto praticamente ogni aspetto che noi abbiamo vissuto e che Lui ha affrontato ogni problematica che noi affrontiamo ogni giorno. Lui era uomo noi, era uomo come noi e ha vissuto le stesse cose nostre, e io vi voglio mostrare come Lui affrontava determinate situazioni che noi affrontiamo ogni giorno, se non ogni giorno abbastanza spesso. Per esempio, ecco alcuni esempi, vi farò quattro esempi. Giacomo e Giovanni. Vi ricordate di Giacomo e Giovanni? Cioè, praticamente Gesù con tutti i suoi discepoli stava attraversando la Samaria perché si stava recando a Gerusalemme e passa attraverso un villaggio della Samaria e questi qua non lo ricevono, anzi lo cacciano proprio. Allora, i fedelissimi, gli intrepidi, Giacomo e Giovanni si rivolgono a Gesù e dice: Signore, vuoi che diciamo che scende il fuoco dal cielo e che li distrugge tutti? Quante volte è stata la mia preghiera in questa maniera? Non dico il fuoco, ma dico, io basta che lo dica a denti stretti: Signore, tu conosci quello. Ed è la stessa preghiera di Giacomo e Giovanni. La risposta di Gesù è importante per noi. La risposta di Gesù. Prima li ha rimproverato, sempre a modo. Ha detto, voi non sapete il senso delle cose di Dio. Ma va bene, poi ha detto, io sono venuto per salvare proprio questi. Il Signore ha affidato a me, ha affidato a te il compito di salvare proprio quelli che ci danno più noia, quelli che noi riteniamo semmai nemici o contrari a noi. Il Signore ci ha dato la forza, l'autorità e la potenza per salvare proprio quelle persone. Secondo episodio, che dobbiamo andare veloce. Pietro, l'apostolo Pietro. Allora, pescatore, è un, non c'è nessun pescatore fra di noi di professione, è un lavoro duro, pesante, tutto. E allora Gesù la mattina ha usato la barca di Pietro, della società, e si è messa a predicare. Dopo che ha predicato, si è rivolta a Pietro, ha detto, beh, adesso prendiamo il largo e butta le reti. Ha fatto proprio così Pietro, proprio per non dire, ma tu me lo vieni a dire a me, che sono pescatore. Dice, l'ha detto gentilmente, Signore, è tutta la notte che abbiamo pescato e non abbiamo preso nulla. Ed è vero, però poi ha aggiunto, e questa è la forza, poi ha aggiunto, ma alla tua parola, secondo la tua parola, io lo farò. È conveniente, non ho pescato niente, io che lo so fare, non ho preso niente. Mo tu dici butta la rete, in un'altra storia è buttala dall'altro lato, e praticamente quello non ha risolto tutta la giornata, ha risolto tutta la settimana per aver ascoltato a quella parola. Quando noi ascoltiamo la parola che Dio ci dà, noi risolviamo non solo tutte le nostre difficoltà, ma abbiamo poi la forza anche per aiutare gli altri, perché il Signore ci riempie di quello, ci mette la gioia, ci dà la pienezza e ci fa vivere ogni cosa su un altro livello. Ma continuiamo. Tommaso, beh, questo è proprio conosciuto, no? Vi ricordate di Tommaso? Questo era l'altro. gli apostoli, tutti gioiosi, tutti allegri, tutti entusiasti, andare a dire all'unico che non c'era con loro, a dire: sai Tommaso, abbiamo visto il Signore, è risorto. E risorse, non metto il dito. E quel dito, quante volte noi lo vogliamo mettere, quel dito, se non metto il dito. E Gesù ha detto: vieni, tocca, tocca. Il Signore ci fa toccare, il Signore dà le risposte che noi desideriamo, però poi ha aggiunto a Tommaso. Vi ricordate che cosa poi ha detto a Tommaso? Chi se lo ricorda? Vi credo. Sii credente, cioè credi, credi. Non per forza devi toccare, devi vedere. Vedete anche Paolo, l'apostolo Paolo, quell'esempio più forte. Era infermo che non si poteva muovere, o gli occhi, non si sa, gli è scritto una spina nel fianco e stava a letto, e anche in un'altra occasione lo hanno accudito. Era infermo e pregava per gli altri. E la cosa bella o brutta è che gli altri guarivano. E Paolo? Ti basta la mia grazia. È incredibile. Ma questo riempie e dà forza di vita, perché poi Paolo, proprio da quello, si è alzato in piedi ed è andato per realizzare quello che era una chiamata sua, proprio da quello. L'ultimo, le mamme, la mamma di Giacomo e Giovanni, le mamme. È andata a Gesù, vi ricordate? La mamma è andata a Gesù e ha detto... Però bisogna considerare che è una donna di grande fede, perché ha detto a Gesù: quando sarai nel tuo regno. Quindi lei credeva fermamente a quello che Gesù aveva predicato, quindi di grande fede: quando sarai nel tuo regno, fa che i miei figli, uno a destra e uno a sinistra, non fa niente se Giacomo è a sinistra o Giovanni, l'importante, uno a destra e uno a sinistra. È incredibile la risposta di Gesù, è incredibile la risposta di Gesù. Che cosa ha detto Gesù? Non è che ha rimproverato, che ha detto: ma che cosa stai dicendo? Com'è l'uguaglianza? Non ha detto niente, ha detto semplicemente: vuoi essere maggiore? Ma che bello, è una bella aspirazione quella che hai, servi. Inizia con il servire. Vedete, questa era vita pratica di ogni giorno che Gesù affrontava con i suoi, e doveva reagire alla maniera di edificare, e non perché lui poteva dire a Giacomo e Giovanni: ma come, non sono capace io di far scendere il fuoco? Com'è, io sono di più? Niente. Poteva dire anche a Tommaso: dopo tutti i miracoli che hai visto, tu vieni a fare questa richiesta. O a Pietro anche, o alla tutto poteva rispondere in un'altra maniera. Invece ha risposto in maniera tale che noi possiamo rispondere a tutte le situazioni che viviamo. Il terzo aspetto di questo passo parla di noi, della nostra generazione. Dice: una generazione ingiusta e perversa. Un'altra traduzione dice storta e perversa. Generazione ingiusta e perversa. Bisogna dire questo: che ogni generazione è così. Non è che la nostra è peggiore di quella che è stata o migliore di quella che verrà. No, ogni generazione si manifesta il peccato e il male in una maniera differente, ma è sempre la stessa cosa. Si ripete sempre la stessa cosa, perché il diavolo è lo stesso, inventa altre strategie, altri modi per schiacciare, per abbattere, ma sempre il suo obiettivo è quello. Generazione perversa e stolta. Abbiamo detto già che siamo avvolti dal peccato, è vero, ma sapete qual è il peccato più grande di questa generazione? E questo forse ce l'abbiamo l'esclusiva solo noi, è quello di estromettere Dio da noi, dalla nostra vita, dalla nostra società. Non puoi più nominare Dio. Avete sentito giorni fa al telegiornale che volevano togliere le croci da sopra le vette delle montagne perché non era inclusivo. È un aspetto stupido, però vedete il modo di come ragiona questa società. Vuole proprio togliere di mezzo Dio, lo vuole togliere di mezzo anche dalla nostra vita, estrometterlo da tutto quello che noi siamo e facciamo. Ma noi dobbiamo sapere, dobbiamo anche proclamare che Dio è morto per ogni tipo di peccato, piccolo o grande che sia, perché il Signore che ha detto non ammazzare ha detto anche non mentire. E davanti a Dio ogni peccato è uguale. Ora vediamo, ricordati però che quando tu poi proclami e annunzi in questa maniera, ti devi preparare a essere deriso, a essere insultato e a essere messo da parte. Questo lo devi mettere a conto, perché questo è il prezzo che è chiesto a noi di pagare. Ma noi dobbiamo essere ben armati da voler pagare questo prezzo e anche di più, anche fino alla morte, tanti nostri fratelli che sono della Chiesa perseguitata. Non dimentichiamolo questo. Facciamo il quarto aspetto, andiamo velocemente per terminare, perché credo che il tempo è saltato. Questo è proprio il motto di quest'anno, qual è? E risplendi. Ma come si risplende? Questa è sempre la domanda. Come si risplende? Possiamo dire, però dovete alzare un po' la voce, perché non è la vostra voce bassa, è il rumore di quel coso che mi toglie l'udito. Come si risplende secondo voi? Quando io ricevo la risposta che assomiglia a quella che io ho detto, allora lo leggiamo. L'hanno già messo, va bene, allora partiamo dal primo, il secondo non lo mettete, va bene? Testimoniare, quando noi testimoniamo facciamo risplendere la verità e la gloria di Dio, facciamo risplendere l'opera di Dio attraverso la nostra parola. Ecco perché testimoniare vuol dire risplendere. Quando tu racconti quello che Gesù, quello che il Signore ha fatto o fa nella tua vita e che realizza anche ogni giorno nella tua vita, tu stai mettendo il Signore Gesù al primo posto, lo stai mettendo in alto affinché gli altri possano vedere la gloria, la potenza e l'autorità di Dio. Se l'ha fatto con te, lo può fare anche con me. Questo è risplendere. Beh, mo ditene un altro, non lo mettete. Lodare, sì, è vero, lodare il Signore, però non si avvicina a quel che dico io, va bene. Poi lo mettiamo dopo, d'accordo? Lo mettiamo al quarto punto. Ancora? Gioire, anche questo è gioire. Io credo che ognuno dirà una parola di... E questo è il bello. Voi dovete continuare a pensare così. Cioè, come si risplende? Con quello che voi pensate. Quello è il modo per risplendere. E noi lo dobbiamo incentivare, quello, nella nostra vita. Però io al secondo punto ho messo... incoraggiare. Non perché gioire o lodare sia di meno o di più, è diverso, perché io ho messo incoraggiare, perché quando tu ti approcci al fratello per incoraggiare, per mostri quanto è bello vivere il Signore, perché tu per incoraggiare l'altro non è che gli metti la mano addosso e dici poverino, pure io, quello è demolire, non è incoraggiare. Incoraggiare è cercare qualcosa che accende nell'altro la gioia e vedere che il Signore vuole operare anche in lui. Mostra quanto è bello servire Gesù. Quando noi incoraggiamo gli altri, noi stiamo mostrando che servire Gesù non è un peso, non è un obbligo, non è qualcosa di oppressivo, di ma devo fare pure questo dovere, no, ma è di gioioso, perché io servendo il Signore sono pieno di tante parole che posso incoraggiare anche l'altro. Il terzo aspetto che ho messo è consolare. Consolare. Perché consolare? Perché noi lo sappiamo, ognuno di noi lo sperimenta, la sofferenza ammazza ogni gioia, ammazza ogni veramente visione per la vita. La sofferenza ti toglie proprio la vita. Quando noi andiamo all'altro e parliamo sempre del consolare, noi mostriamo, stando a fianco, che insieme è meglio. Semplicemente quello che Gesù ha detto, insieme è meglio, non perché tu lo sai o sai fare meglio dell'altro, ma insieme è meglio, è più forte. La parola di Dio lo dice, due valgono più che uno solo. Lo usiamo sempre per il matrimonio, ma noi non è per il matrimonio, siamo noi che l'abbiamo messo al matrimonio, ma questa è per la vita quotidiana, insieme è meglio che da solo. Allora, risplendere non risplende a chi va tutto bene. Non lasciarti ingannare. Non risplende a chi va tutto bene. Risplende chi ha speranza dentro. Se hai anche solo una speranza grande quanto un granello di senape, questo ingigantisce te nelle situazioni che stai vivendo. È la speranza che ci permette di affrontare ogni situazione e tutto quello che noi viviamo. La speranza che il Signore opera, che il Signore è al mio fianco, che il Signore è il mio Signore, e aggiungi tutto quello che vuoi. Questo ci fa risplendere. Ora, proprio per terminare realmente, vi mostro una immagine, va bene? Teniamola questa. È risplendere? Ehi, solo Pino l'ha visto. Risplendono queste persone? Certamente, il bimbo e la mamma. Eppure ti viene da chiedere, ma che cosa hanno da risplendere? Perché il bimbo sta praticamente con i gesti dicendo: mamma, fra poco ti do il mio zaino. La mamma sta pensando e lo devo portare a scuola e lo devo prendere dalla scuola e poi devo fare tutte le cose e mettere in ordine, e il bimbo starà pensando pure, dice, e ricevo sempre no, e sempre no a tutto quel che chiedo, e no e devo ubbidire a questo e devo mettere a posto questo. Che cosa hanno da risplendere? Messa così non hanno niente da risplendere, ma loro risplendono perché hanno il bene più grande che possono avere l'uno all'altro, la mamma e il figlio alla mamma, e questo è con il Signore, anche con noi, ai Gesù, che è Salvatore ed è Signore. Hai la parola che è una bussola, e più ricco di così non si può. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore. Padre, nel nome di Gesù vogliamo dirti grazie veramente per la ricchezza di cui tu ci ricolmi. Insegnaci, anzi, come scritto nella tua parola, apri i nostri occhi affinché noi possiamo vedere le ricchezze di cui ci circondi e tutto quello che metti a nostra disposizione. Signore, grazie l'uno per l'altro, grazie che abbiamo te, e Signore, insieme vogliamo ingrandire, innalzare, glorificare il nome tuo nella nostra vita. Amen.